Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren, traduzione di Donatella Ziliotto, Annuska Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi gioca a rincorrersi con la polizia. Ben presto si sparse la notizia che una bambina di 9 anni abitava tutta sola Villa Villa Colle. Secondo le signore e i signori della cittadina, la cosa non era assolutamente accettabile. Tutti i bambini, infatti, devono avere qualcuno che faccia loro le prediche e tutti i bambini devono andare a scuola e imparare la tavola pitagorica. Perciò tutte le signore e tutti i signori decretarono che la ragazzina di Villa Villa Colle dovesse essere messa in una casa famiglia. Era un bel pomeriggio e Pippi aveva invitato Tommy e Annika da lei a prendere il caffè con i biscotti allo zenzero, apparecchiando sui gradini della veranda. Il sole splendeva e scaldava e i fiori del giardino di Pippi emanavano un intenso profumo. Il signor Nilsson saliva e scendeva velocemente dalla ringhiera della veranda e di tanto in tanto il cavallo sporgeva il muso per chiedere un biscotto. «In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere», disse Pippi stirando le gambe più che poteva. Proprio allora due poliziotti in alta uniforme entrarono dal cancello. «Oh!» esclamò Pippi. «Ma allora anche oggi è il mio giorno fortunato! I poliziotti sono proprio la mia passione, ovviamente dopo la crema di rabarbaro!» E andò incontro ai poliziotti col visino illuminato d'entusiasmo. «Questa sarebbe dunque la bambina che ha traslocato a Villa Villa Colle?» si informò uno dei poliziotti. «Al contrario!» rispose Pippi. «Questa è una sua minuscola prozia che abita al terzo piano dalla parte opposta della città!» Disse così soltanto perché voleva scherzare un po' con i poliziotti, ma quelli mostrarono di non divertirsi affatto. La invitarono anzi a non fare la spiritosa. L'informarono poi che delle persone gentili in città si erano date la pena di trovarle un posto in una casa famiglia. «Io sono già sistemata in una casa famiglia», disse Pippi. «Come? È già tutto sistemato?» esclamò uno dei due poliziotti. «E dove si trova questa casa famiglia?» «Qui?» rispose Pippi con orgoglio. «Questa è una casa ed è della mia famiglia. Non si tratta dunque di una casa famiglia? E di posto qui ne ho tanto, tantissimo!» «Bambina cara», disse il poliziotto sorridendo, «evidentemente non mi sono spiegato bene. Tu devi stare in una vera casa famiglia e avere qualcuno che si occupi di te». «Si possono tenere cavalli nella vostra casa famiglia?» chiese Pippi. «No, certo che no», rispose il poliziotto. «Proprio come pensavo», disse Pippi scura in volto. «E scimmie?» «Nemmeno». «Ah, è così?» sbottò Pippi. «E allora andate da un'altra parte a cercarvi dei bambini per la vostra casa famiglia. Io non mi ci trasferisco di sicuro». «Ma non capisci che devi andare a scuola?» disse il poliziotto. «Perché dovrei andare a scuola?» «Per imparare tante belle cose». «Che tipo di cose?» si informò Pippi. «Di tutto», spiegò il poliziotto. «Un sacco di cose utili come le moltiplicazioni e la tavola pitagorica, per esempio». «Me la sono cavata perfettamente senza tavola piragotica per ben 9 anni», disse Pippi, «e sono sicura che continuerò a cavarmela anche in futuro». «Sarà, ma immagina quanto ti peserà la tua ignoranza quando sarai grande. Qualcuno magari ti chiederà qual è la capitale del Portogallo e tu non saprai rispondere». «Certo che so rispondere», esclamò Pippi. «Risponderò così. Se proprio muori dalla voglia di sapere come si chiama la capitale del Portogallo, per carità, scrivi subito al Portogallo e chiedi». «Ma non pensi che ti sentiresti un po' mortificata a non saperglielo dire tu stessa?» «Può darsi», disse Pippi. «Probabilmente rimarrei sveglia fino a tarda notte a chiedermi: ma come diavolo può chiamarsi la capitale del Portogallo? Beh, non ci si può divertire sempre», concluse, e si mise a testa in giù sulle mani per un po'. «Del resto, sono stata a Lisbona col mio papà», aggiunse, continuando a rimanere a testa in giù, perché tanto riusciva benissimo a parlare anche così. A questo punto, però, uno dei poliziotti disse che Pippi non doveva credere di poter fare tutto quello che voleva. Doveva seguirli alla casa famiglia seduta stante. E avvicinatosi a Pippi la prese per un braccio. Ma lei si liberò con sveltezza e dandogli un colpetto sulla spalla disse «Ce l'hai!»

Ogni mattina alle 8 si incamminavano mano nella mano con i libri sotto braccio. Di solito a quell'ora Pippi strigliava il suo cavallo o metteva al signor Nilsson il suo vestitino, oppure si dedicava alla ginnastica mattutina, che era così. Pippi si metteva dritta in palata e poi eseguiva 43 salti mortali di seguito. Dopodiché si sedeva sopra il tavolo della cucina e in santa pace si beveva una bella tazza di caffè mangiando un panino con burro e formaggio. Avviandosi di malavoglia a scuola, Tommy e Annika non mancavano mai di volgere uno sguardo di struggente desiderio a Villa Villa Colle. Quanto avrebbero preferito andare a giocare con Pippi! O se almeno lei fosse andata a scuola con loro, allora la cosa sarebbe stata accettabile. «Pensa come ci divertiremmo insieme tornando da scuola», diceva Tommy. «Sì, e anche all'andata», aggiungeva Annika. Più ci rimuginavano e più trovavano ingiusto il fatto che Pippi non andasse a scuola. Decisero quindi di provare a convincerla. «Non puoi neanche immaginare che maestra simpatica abbiamo», cominciò Tommy con molta astuzia un pomeriggio che lui e Annika erano andati da Pippi dopo aver fatto diligentemente i loro compiti per casa. «Se tu soltanto sapessi quanto ci si diverte a scuola», continuò Annika, «io impazzirei a non poterci andare». Pippi era seduta su uno sgabello e si stava lavando i piedi in una bacinella. Non rispose, si limitò a muovere le dita dei piedi facendo schizzare l'acqua tutto intorno. «E poi non bisogna rimanerci troppo a lungo», proseguì Tommy, «soltanto fino alle 2». «Proprio così, e poi ci sono le vacanze di Natale, quelle di Pasqua e quelle estive», incalzò Annika. Pippi si mordicchiò meditabonda l'alluce, ancora seduta in silenzio. All'improvviso rovesciò risolutamente tutta l'acqua sul pavimento della cucina, così che il povero signor Nilsson, che stava accoccolato poco più in là a giocare con uno specchietto, si inzuppò completamente i pantaloni. «Non è giusto», disse Pippi con voce cupa, senza preoccuparsi della disperazione del signor Nilsson per i suoi pantaloncini bagnati. «Non è per niente giusto. È insopportabile». «Che cosa non è giusto?» chiese Tommy. «Che fra 4 mesi sarà Natale e voi avrete le vacanze. Ma io? Io che cosa avrò?» La voce di Pippi era tristissima. «Nessuna vacanza di Natale, nemmeno la più piccola vacanza natalizia», proseguì in tono lamentoso. «No, così non va. Da domani comincerò ad andare a scuola». Tommy e Annika batterono le mani dalla gioia. «Urrà! Allora ti aspettiamo davanti al nostro portone alle 8!» «No, no», disse Pippi, «non posso cominciare così presto. E poi io a scuola ci andrò a cavallo». E così fece. Esattamente alle 10 del giorno seguente sollevò dalla veranda il suo cavallo e un minuto dopo tutti gli abitanti della cittadina si precipitarono alla finestra per vedere di chi fosse quel cavallo imbizzarrito. Perché erano convinti si trattasse proprio di un cavallo imbizzarrito. Invece era soltanto Pippi che aveva fretta di arrivare a scuola. Giunse nel cortile al galoppo più sfrenato, balzò dal cavallo in corsa, lo legò a un albero e spalancò la porta della classe con tale violenza che Tommy e Annika, insieme ai loro bravi compagni di scuola, sobbalzarono nei loro banchi. «Ciao, ciao!» esclamò Pippi agitando il suo grande cappello. «Arrivo in tempo per le mortificazioni?» Tommy e Annika avevano già annunciato alla maestra che sarebbe venuta una nuova bambina di nome Pippi Calzelunghe. La maestra, dal canto suo, aveva sentito molto parlare di Pippi nella cittadina e siccome era una maestra davvero gentile e simpatica, aveva deciso di fare l'impossibile perché Pippi si trovasse bene a scuola. Pippi si buttò a sedere in un banco libero senza che nessuno gliel'avesse assegnato, ma la maestra non sembrò notare i suoi modi sgangherati. Disse soltanto in tono molto amichevole: «Benvenuta a scuola, piccola Pippi. Spero proprio che ti troverai bene e imparerai tante belle cose». «Bene, bene, e io spero di avere le vacanze natalizie che mi spettano», disse Pippi. «La giustizia innanzitutto». «Se intanto vorrei essere così gentile da dirmi il tuo nome completo», disse la maestra, «io lo scriverò nel registro di classe». «Mi chiamo Pippi Lotta Pesanella Tapparella Succiamenta, figlia del capitano Efraim Calzelunghe, un tempo terrore degli oceani, ora re dei mari del sud. Pippi non è che il mio diminutivo, perché papà trovava Pippi Lotta troppo lungo». «Bene», disse la maestra, «anche noi ti chiameremo semplicemente Pippi. Cominciamo intanto a testare un po' le tue conoscenze, ormai sei una bimba grande e di certo sai già una gran quantità di cose. Iniziamo magari con l'aritmetica. Dunque, Pippi, sai dirmi quanto fa 7 più 5? Pippi la guardò un po' stupita e un po' corrucciata. Poi disse: «Beh, senti, se non lo sai da te, non aspettarti che te lo venga a raccontare io». Gli altri bambini guardarono Pippi scandalizzati e la maestra le spiegò che quello non era il modo di rispondere a scuola. Non si doveva dare del tu all'insegnante e bisognava chiamarla maestra. «Mi dispiace tanto», disse Pippi contrita. «Non lo sapevo e non lo farò mai più». «Lo spero», disse la maestra, «e voglio anche dirti che 7 più 5 fa 12». «Vedi che lo sapevi!» esclamò Pippi. «Ma allora perché me l'hai chiesto? Oh, che stupida! Ti ho dato di nuovo del tu, perdonami!» disse e si diede una vigorosa tirata d'orecchie. La maestra fece finta di nulla e proseguì con l'interrogazione. «Allora, Pippi, quanto fa secondo te 8 più 4?» «Così, a occhio e croce, 67», rispose Pippi dopo matura riflessione. «Certo che no!» disse la maestra. 8 più 4 fa 12. Ah, vecchia mia, ora stiamo proprio passando il segno, si indignò Pippi. Tu stessa hai detto poco fa che è 7 più 5 che fa 12. Persino a scuola ci vuole un po' d'ordine. A proposito, se proprio sei appassionata di simili sciocchezze, perché non ti metti buona buona in un angolo a contare per conto tuo e ci lasci in pace? Così intanto noi possiamo giocare a rincorrerci. Accidenti, ti ho dato di nuovo del tu, gridò spaventata. Ti prego, perdonami se puoi ancora una volta e ti prometto di cercare di ricordarmene d'ora in avanti. La maestra disse che l'avrebbe perdonata, ma pensava non fosse il caso di insistere ancora sull'aritmetica con Pippi. Preferì mettersi a interrogare gli altri bambini. Tommy, vediamo se riesci a risolvere questo problema, cominciò. Se Lisa ha 7 mele e Axel ha 9 mele, quante mele hanno in tutto? Sì, forza, rispondi, Tommy, intervenne Pippi. E poi rispondi anche a questo mio problema. Se a Lisa viene mal di pancia e ad Axel viene ancora più mal di pancia, di chi è la colpa? E dove avevano rubato le mele? La maestra fece finta di non aver sentito e si rivolse ad Annika. Ora, Annika, porrò a te un altro problema. Gustavo ha preso parte con i suoi compagni a una gita scolastica. All'andata aveva una corona e al ritorno 7 centesimi. Quanto ha speso? Già, disse Pippi. E poi ci sono io che voglio sapere perché aveva le mani così bucate, se i soldi li aveva spesi per una gazzosa e se si era lavato le orecchie per bene prima di uscire di casa. La maestra decise di lasciar perdere l'aritmetica. Forse Pippi avrebbe preferito imparare a leggere, pensò. Quindi mostrò una figura che rappresentava un istrice con la lettera I davanti al naso. «Ecco qualcosa di divertente, Pippi», disse vivacemente. «Qui vedi un istrice». E questa davanti all'istrice è la lettera I. Non ci posso credere, esclamò Pippi. A me sembra un'asta con una cacchina di mosca sopra e sarei proprio curiosa di sapere che cosa c'entra un irtice con una cacchina di mosca. La maestra tirò fuori l'illustrazione successiva che raffigurava un serpente e spiegò a Pippi che la lettera accanto si chiamava S. S. «A proposito di serpenti», disse Pippi, «mai riuscirò a dimenticare quella volta che lottai con un serpente gigante dell'India. È impossibile immaginare quanto era spaventoso, lungo 14 metri e inferocito come un'ape, e ogni giorno mangiava 5 indiani e 2 bambini piccoli per dessert, e una volta si mise in testa di avere me come dolce, e allora mi avvolse nelle sue spire, crash! Ma siamo o non siamo lupi di mare?» mi dissi. E gli detti un forte colpo in testa, boom! E allora quello sibilò, e io lo colpii ancora una volta, boom! E allora, pff, morì. Ah sì, questa per voi è la lettera S. S. Davvero straordinario. Qui Pippi fu costretta a riprender fiato e la maestra, che cominciava a giudicarla una bambina piuttosto rumorosa e fastidiosa, propose alla classe di dedicarsi un po' al disegno. Pensava che almeno così Pippi si sarebbe messa a sedere tranquilla a disegnare. Tirò fuori carta e matite e le distribuì agli alunni. «Disegnate quel che volete», disse, e si sedette alla cattedra per correggere i compiti. Quando dopo un po' levò lo sguardo per vedere se col disegno le cose funzionavano meglio, si accorse che tutti i bambini stavano guardando Pippi, la quale, distesa sul pavimento, disegnava con molta foga. «Ma Pippi!» gridò la maestra spazientita. «Perché non disegni sul foglio?» «Quello l'ho già riempito», rispose Pippi. «Ma il mio cavallo tutto intero non ci sta mica su quel misero foglietto. Proprio ora gli sto facendo le zampe davanti, ma quando arriverò alla coda credo che mi toccherà andare a disegnare in corridoio». La maestra rifletté. «E se invece ci mettessimo tutti a cantare?» propose. Immediatamente i bambini si alzarono in piedi dietro ai loro banchi, tutti meno Pippi, che rimase distesa sul pavimento. Cantate pure voi, disse. Io mi riposo un po', la troppa conoscenza stroncherebbe anche la persona più sana. Ma la maestra aveva esaurito le sue riserve di pazienza. Invitò tutti gli altri bambini ad andarsene a giocare in cortile per poter parlare con Pippi a quattro occhi. Quando furono rimaste sole, Pippi si alzò e andò difilato alla cattedra. «Sai una cosa, santo cielo, voglio dire, sai una cosa, maestra?» disse. «È stato davvero divertente vedere come ve la passate qui, ma direi che non mi interessa molto continuare. Sarà quel che sarà per le vacanze di Natale. Qui avete decisamente troppe mele, irstici e serpenti, ho una gran confusione in testa. Spero proprio, maestra, che questo non ti rattristi troppo». La maestra rispose che invece le dispiaceva molto, ma che la cosa che più le dispiaceva era vedere come Pippi non tentasse nemmeno di comportarsi a modo. Nessuna ragazzina che si fosse comportata come lei avrebbe potuto frequentare la scuola, neanche se l'avesse desiderato con tutta se stessa. «Mi sono comportata male?» chiese Pippi stupidissima. «Beh, non me ne sono proprio accorta», disse facendo la faccia triste. Nessuno poteva sembrare più sconsolata di Pippi quando era triste. Stette zitta un momento, poi disse con una vocina tremante: «Devi capire, maestra, che quando una ha un angelo per mamma e un re dei mari del sud per papà e non ha fatto altro per tutta la vita che navigare per i mari, non può sapere esattamente come deve comportarsi a scuola in mezzo a tante mele e a tanti irstici». La maestra allora la consolò dicendole che comprendeva perfettamente, che non era più arrabbiata con lei e che magari quando Pippi fosse un po' cresciuta sarebbe potuta ritornare a scuola. Allora Pippi esclamò raggiante di gioia: «Oh maestra, come sei buona! Voglio regalarti subito una cosa, maestra!» E dalla tasca estrasse un orologino d'oro molto grazioso che posò sulla cattedra. La maestra protestò dicendo che non poteva accettare un oggetto di tanto valore. Ma allora Pippi disse: «Devi farlo, altrimenti ritorno anche domani e vedrai che spettacolo!» Poi Pippi si precipitò nel cortile della scuola e balzò in groppa al cavallo. Tutti i bambini le si strinsero intorno per accarezzare l'animale e assistere alla sua partenza. «Le scuole in Argentina, quelle sì», disse Pippi con superiorità guardando i bambini dall'alto in basso. «Dovreste andare lì. Le vacanze di Pasqua cominciano 3 giorni dopo la fine di quelle natalizie e terminano 3 giorni prima dell'inizio di quelle estive. Le vacanze estive finiscono il 1° di novembre e poi, naturalmente, i ragazzi sono messi a dura prova fino all'11 di novembre, quando hanno inizio le vacanze di Natale. Ma si sopporta perché comunque compiti non ne danno mai. In Argentina è severamente proibito fare i compiti. Ogni tanto succede che un bambino argentino si infila in un armadio e sta lì a fare i compiti di nascosto, ma guai a lui se la sua mamma se ne accorge. In quelle scuole non esiste l'aritmetica. E se per caso un bambino sa quanto fa 7 più 5 ed è così stupido da andarlo a raccontare alla maestra, viene costretto a starsene in castigo nell'angolo per tutto il giorno. Lettura la fanno soltanto di venerdì e solo se ci sono dei bei libri da leggere, però non ce ne sono mai». «Ma allora a scuola che cosa fanno?» chiese un ragazzino. «Mangiano caramelle», rispose Pippi prontamente. «Da una fabbrica di caramelle nelle vicinanze parte un tubo che va a finire dritto in classe e da questo scorre un fiume di caramelle dalla mattina alla sera, quindi i bambini sono occupatissimi tutto il tempo a mangiarsele». «E la maestra intanto che cosa fa?» domandò una bambina. «Scarta le caramelle per i bambini, stupidina», disse Pippi. «Non avrei mica pensato che lo facessero da soli, neanche per sogno, e del resto nessuno va a scuola di persona, ma manda suo fratello». E qui Pippi agitò il suo grande cappello. «Statemi bene, bambini», gridò contenta. «Dovrà passare un bel po' di tempo prima che mi rivediate, ma ricordatevi sempre quante mele aveva Axel, altrimenti sono guai». E con una squillante risata, Pippi uscì al galoppo dal cancello facendo schizzare la ghiaia da sotto gli zoccoli del cavallo e tremare i vetri delle finestre della scuola. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio.